Ho visto. Allora, 3:30, 1:30, qua. Adesso lo voglio. Colore. È la via di mezzo fra questa e quella. Ti faccio anche sopra. Nero e bordeaux. Grigio è quello lì di fuori. 39. 50-60 di lana nera. Perché ho fatto la ricarica? No, e lui gli avendo pagato 90, quest'anno. Aspetta Diego, vieni un attimo. Quello piccolo da 5 e quello grande da 10, da 5. Non vedetevi là, ho detto sicuramente sono nuovo. Thank you.